Balotelli, Segna Balotelli, e se saltelli, Segna Balotelli. Grazie della convocazione, mister. Mister Ginta, finalmente dopo 2 anni di tribuna mi ha convocato, volevo ringraziarla. Non stiamo a dire che sento tutto il giorno Radio 24, la lascio accesa anche la notte, tanto sono sola. Tutti convocati di Carlo Genta. Diciamo che per l'allenatore è convocabile, per il presidente è convocabile, quindi è pronto a giocare. Il Bayern muove le torri, sono in 4 che vanno a saltare, tra cui ovviamente Dante Boateng. Palla in mezzo, Buffon, porta vuota, rete! Vantaggio del Bayern Monaco e qui si complica tremendamente. Qui si complica tremendamente. Schweinsteiger, palla dentro, arriva il raddoppio con Pizarro. Raddoppio di Pizarro, 2-0 per il Bayern, come all'andata. Game over allo Juventus Stadium, la Juve si inchina a un Bayern Monaco fantastico che vince con merito, passa il turno. Sarebbe irrispettoso, no? Non è bello parlare di eventualmente di programmi, no? O di cosa fare per cercare di colmare, di avvicinarci a colmare questo gap, perché questo gap non è che dall'oggi al domani lo colmi, eh? Che sia chiara sta cosa. Ma devo dire che questo è un gap, direi, a livello generale del calcio italiano. Il calcio italiano non è più in prima fila come lo era qualche anno fa. Bisogna avere anche l'umiltà di capire che è un momento in cui bisogna lavorare testa bassa e cercare di tornare ai livelli dove eravamo, perché in questo momento io non vedo prospettive di vittoria per una squadra italiana da qui per parecchi anni in Champions League. Oggi il potere del Bayern, per esempio, il potere d'acquisto, il potere di quello che è il fatturato espresso è il doppio del nostro, il doppio delle squadre italiane, per cui capite che dal punto di vista economico si possono permettere, come tutti sanno, Savi Martinez, pagarlo 40 milioni in contanti. Questo il senso di ciò che è successo ieri sera. Abbiamo dunque il nome dell'assassino della Juventus. Franco Piantrini, autore di questo programma, Fabio Cantadone in regia, e oggi un ospite a me graditissimo, perché autore e conduttore, ma non dico perché qui, perché ve l'ho detto 1000 volte, del mio programma televisivo preferito, sportivo naturalmente, speciale calciomercato, Alessandro Bonan. Ciao. Ciao, ciao, che bello, grazie. Che bello di che, adesso ti arrivano gli ascoltatori e poi gli rispondi. 800240024, primo tweet è Giulio, in ogni caso, io non credo alla buona fede dell'arbitro di Juve Bayern. Tanto per cominciare. Io credo alla buona fede in questo momento degli arbitri, perché c'è bisogno di buona fede del mondo. Di buona fede e di buona volontà, ma tu sei qui innanzitutto... Perché adesso ti faccio una domanda, sì, no, per presentare un libro che hai scritto, che non è un libro di calcio, non è nemmeno un libro di sport, è un romanzo, un giallo, Anatomia di una voce. Sì. Poi facciamo anche l'anatomia delle voci. Ecco, e allora io ti chiedo subito, chi è l'assassino? Sei un bastardo. Allora, siccome è un libro depistante, fatto di depistaggi questo, sì, depisto subito tutti dicendo che non c'è un assassino, anche se è un thriller psicologico, più che un giallo, un noir psicologico, vive soprattutto degli intrecci psicologici che sono all'interno di queste pagine. E spero che siano soprattutto questi intrecci, questi intrighi a tenere il lettore ancorato alle pagine di Anatomia di una voce, più che una soluzione finale che comunque esiste. Ma c'è Faina nel libro? Potevi fare lui come killer? Secondo me veniva bene. Faina è in tutti i romanzi del mondo. E interpreta tutte le parti. 800240024, il vostro numero verde, messaggi 349-238-6666 per i vostri pensieri o anche insulti come al solito, ma non è un problema, mai. Ma perché un giornalista sportivo e un conduttore scrive un libro di questo tipo? Forse perché siamo tutti un po' deviati mentali, noi? Sicuramente, io sono un forte deviato mentale, e al di là delle devianze di ognuno di noi, io penso che scrivere sia una bella cosa, e siccome mi piace scrivere come esercizio anche mentale, io ho pensato che se mi portavo a casa il lavoro scrivendo di sport avrei fatto un danno a me stesso, allora ho detto ok, scrivo. Ma scrivo di un mondo diverso rispetto a quello che frequento. Tant'è vero che tante volte mi hanno chiesto di scrivere romanzi legati allo sport e ho sempre detto di no. Non è detto che poi magari prima o poi lo faccia, però al momento la necessità che sentivo era proprio quella di scrivere una storia. Cosa potresti fuori fare, sport? Alessandro Monanna? Un romanzo incentrato su giocatori o allenatori che avresti voluto strozzare? Cioè, ce ne sarà stato qualcuno? Non ti chiedi i nomi, No, ti dico la verità. Adesso, cioè, da quando faccio il giornalista, pochi. Quando ero un tifoso, e io ero un tifoso da curva, e non mi devi chiedere di quale squadra. Perché lo sappiamo, quella. No, non devi. Di te zitto. Va bene. quando ero un tifoso da curva, sì, avrei stronzato tutti gli avversari, perché il curvaiolo è così. Senti, adesso ci fermiamo per il traffico, aspettiamo gli ascoltatori 800240024, poi continuiamo a parlare di assassini calcistici, quelli della Juventus, chi è l'assassino del Malaga, perché io non l'ho ancora capito. Poi facciamo anche l'anatomia delle voci della Champions League. Sì, certo. Come certo. La vedi? Bello, bello, molto bello. E vediamo cosa dicono gli ascoltatori. Dai, strade. Ribéry dalla parte di qua, mamma mia. Tutti convocati. Devo parlare, Mi ha fatto un segno strano. No. devo leggere questo. Buffon Juve tra le 8 big d'Europa, base per migliorare. Se non mi sembra una dichiarazione epocale da inserire nell'anatomia delle voci. Però di contiene settimana. Un fondo di verità, perché le vittorie, io credo poco alle vittorie estemporanee. Le vittorie si costruiscono con il tempo, col sudore, con la fatica, con le sconfitte, e quindi insomma è già stato fatto un passo avanti in attesa di. L'anatomia della voce di Alessandro Bonanna la conoscete bene, questo è anche il titolo del suo libro, ma parliamo di assassini. Allora, l'assassino della Juve è un serial killer, secondo me. Potrebbe essere il serial killer della Champions League, ce ne sono tre, due spagnole. Diciamo che in questo giallo che è stato Bayern, Monaco, Juventus... ci è stato detto tutto subito, quindi il giallista che ha scritto questa doppia partita è un pessimo giallista, perché si sapeva già che la Juventus avrebbe fatto una brutta fine, si sapeva quantomeno dalle prime pagine, insomma, dai primi minuti. Sì. Non so se io sinceramente da un po' di tempo penso che prima o poi Mourinho debba tornare a vincere la Champions League, quindi il mio favorito è il Real Madrid. È anche il mio, di Giuseppe Mourinho. Su questo non può esserci dibattito, quindi. E allora che lo dico da tempo. Niente, se sta così e se parla con gli ascoltatori. Messi è il più scontato degli assassini, invece. Sì, Messi è una zanzara velenosa, cioè è un insetto più che una zanzara. Sì, quindi anche come zanzara è un insetto, però è un insetto più misterioso della zanzara, è un insetto che si infila dove cioè non lo vedi, è un insetto piccolissimo che arriva, ti punge, ti fa male e ti distrugge, insomma. Sì, anche se io non sono un tifosissimo del Barcellona, come l'autore di un libro che tu ospiti, il tiki-taka. Io preferisco squadre più brutte, sporche, cattive, tipo il Real. Ma anche su questo ci troviamo d'accordo, quindi io direi di chiudere il programma qua. Andiamo a casa, Alessandro Monan. Ciao a tutti. Allora torniamo domani alle 2, magari facciamo un'ora. 800240024, ci sono loro e sono tantissimi. Livio da Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Sempre convocati. Oggi mi prendo una mezza giornata di ferie, c'è Alessandro Monan, quindi. Certo. Altro che il sottoscritto, dica. Volevo dire che da tifosissimo Granata mi dispiace molto per come sono andate le cose ieri sera, era prevedibile si sente fare una rimonta del genere. E è il naso. Naso che cresce, eh? Mi spiace molto per il calcio torinese, per il calcio italiano, per la città. Però vorrei dire che mentre nel calcio in Europa stiamo soffrendo molto in questi periodi, in altri sport siamo fortissimi e quindi invito tutti i tifosi domenica a seguire le gesta di Tonino Cairoli e di David Filiberto nel motocross nella prima prova di campionato del mondo che si svolgerà quest'anno in Italia ad Arco di Trento. Sono tifosissimo anche di questo, quindi sono grande. Ma lei tifa Valentino qualità. Rossi come me? Cosa ride? Tifa Valentino Rossi come me o no? Valentino è fuori discussione. Ah, è fuori discussione, benissimo. Però, Cairoli però, è un fuoriclasse assoluto, no. E lo conosciamo tutti e è a caccia di record peggio di Totti, insomma. Livio, la ringrazio, non le credo, ma la ringrazio. Guido, provincia di Grosseto. Pronto? Alessandro Bonanni invece ci credeva, al fatto che era dispiaciuto. Io sono un gran credulone, per cui credo a tutti, mi sembrava addirittura sincero, sì. Io ho sentito il rumore del naso che cresceva, senti, un toscano come te, Guido. Vai, Guido. Sì, io aspetto la radio, pronto. Eccoci, pronto. Siamo pronti. Pronto. Sì. Allora, per prima cosa, grazie per avermi chiamato, complimenti alla trasmissione. Grazie. Io sono un grande tifoso di calcio, però ti ascolto volentieri perché questa è la mia ora di pausa. Bene. E devo dire che è una trasmissione molto intelligente, ma proprio perché è una trasmissione intelligente, volevo dirti che ieri sera, quando si è vista la Juventus contro il Bayern, due partite, virgoletta, io sono tifoso viola ma non da curva, e tra le poche partite che ho visto è quella che ci hanno rubato, eccetera, eccetera, e non voglio fare altri commenti perché sarebbe rivendicare il passato. Però a questo punto vorrei fare un parallelo fra l'Italia e la Germania, sì, e passare un po' a quella che potrebbe essere la politica, perché se visto ieri sera il Bayern è una squadra perfetta, sotto tutti i profili inappuntabili, sarò curioso di vedere la finale col Barcellona. Vediamo, la finale col Barcellona, se vediamo. Barcellona ci arriva, perché insomma questi arbitraggi, pure il fatto del Manchester. Anche qua, anche qua gli arbitraggi, ma no, ma lasciamo stare gli arbitraggi. Il Bayern è forte, secondo me in finale ci arriva, probabilmente può essere, vediamo domani i sorteggi, confronto con il calcio tedesco, qua è impari, no? Alessandro Bonanni. Sì, purtroppo sì, il confronto con il calcio tedesco è impari, il confronto con un certo calcio francese comincia a non vederci così favoriti, il confronto con tutto quel calcio che spende tanto rispetto al nostro che spende poco è un confronto che è diventato molto complicato, però come si dice in questi casi, come gli italiani sono dei maestri nel costruirsi le cose anche con le idee, cerchiamo di mettere un po' sul piatto queste idee, di risolvere un po' di questioni anche politiche, di politica sportiva, legate agli stadi, per esempio, perché se secondo me se la Juventus è andata avanti in Champions League quest'anno deve anche al fatto che aveva un impianto diverso rispetto agli altri. Ma certo, ma sicuro, cioè la Juventus è semplicemente come gli altri, no? Certo. In Europa. Le altre sono dietro. Le altre sono agli anni 50, sì. Anche come gestione della cosa sportiva, anche come gestione societaria, quindi il confronto è impari. Poi io non sono neanche così convinto che sia solo ed esclusivamente una questione di vil denaro o di grano. Dunque, c'è Marco che manda scrive questo sms: sono pigro, non amo leggere, questo mi dispiace per lei Marco, spero facciano il film di Anatomia di una voce. Siamo già, lo spero anch'io vivamente, siamo già al lungometraggio, sì, lo spero anch'io vivamente, e non so se parlare seriamente oppure scherzando un po', però è anche vero che questo è un soggetto molto cinematografico, almeno questo è quello che mi è stato detto, anche teatrale, se vogliamo, siccome per vendere i libri a volte c'è bisogno di un rilancio al cinema, per carità, primo regista che si presenta da me io lo accolgo, vi offro un Ballantyne, non so, anzi un Jack Daniel che mi piace di più e ne parliamo. Antonio da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Io sentivo tutti i commenti sulla Juventus e mi trovano un po' in disaccordo, perché penso che la Juventus in campo internazionale paghi tutte le attenzioni e diciamo gentilezze che riceve nel campo nazionale con nel campionato di Serie A. Che c'entra? Non capisco il parallelo. Secondo perché, me per nulla. Quanto riguarda errori arbitrali, e no? Ma che c'entrano gli errori arbitrali? Sono sempre molto più a favore della Juve che sulle altre squadre del campo nazionale. Se qualcuno ha commentato poco fa che ha ricevuto un'ingiustizia dall'arbitro durante la partita col Monaco, mi sembra che non è che sia... Antonio, però io non lo so, adesso giro volentieri la palla a Alessandro Bonanno, però mi sembra che qui siamo al luogo comunismo. Ma io non so perché non si riesca a venire fuori, a uscire da questa analisi del calcio incentrata soltanto sugli errori arbitrali. Diciamo che se uno vuole fare un discorso un pochino più alto deve chiedersi, e in questo io per esempio sono d'accordo con quello che ha detto Paolo Bonolis, perché il mondo del calcio, il mondo arbitrale è così refrattario alla tecnologia. Ma insomma, in un momento in cui si inventa di tutto, non c'è modo di dare una mano all'arbitro con la tecnica, perché questo poi tra l'altro ingenera il sospetto che vi sia sempre qualcuno che ha la necessità di tenere in mano un briciolo di potere. Allora togliamo questo sospetto da tutti, inseriamo la tecnologia e così rendiamo il calcio più certo. Però è anche vero che fin quando ci affidiamo agli arbitri, io vi assicuro, io ho seguito molte partite dal campo, il calcio è di una velocità, velocità incredibile. Cioè, se noi continuiamo a analizzare le partite soltanto sotto il profilo televisivo, a sbriciolarle in questa maniera, commettiamo un errore, anche un'ingiustizia nei confronti degli arbitri. Sono contento perché su una cosa non saremo mai d'accordo: la tecnologia in campo, io sono un teorico dell'errore, cioè a me piace così, mi piace l'imperfezione. Sì, che però non viene accettata da nessuno. Ma all'estero sì, all'estero non importa nulla, siamo noi che abbiamo questa fissa della certezza del diritto in un gioco che, cioè, a me piace la donna con il piccolo difetto. Ma io ti seguo in questo, siamo in 4-5. Se poi mi dici il chip nel pallone, risolviamo questo problema, palla dentro o fuori, ti dico nel 2013 è ora e tempo. Però a me piace l'incertezza, cioè mi piace l'imperfezione nel calcio, non avverto questa necessità di certezza del diritto, insomma. Sì, l'avvertono tutti quelli che investono milioni di euro, milioni, milioni, milioni di euro, perché il calcio muove tanti, tanti soldi, e allora chi investe avrebbe bisogno di sapere se questi investimenti poi gli tornano indietro in risultati, ed essere certo insomma che vince la squadra più forte, sì. Non quella più protetta. E allora, visto che siamo su questo tema, l'assassino del Malaga chi è? L'assassino del Malaga, il Borussia Dortmund o ma, chi ha fischiato? Io ho fatto il tifo per il Malaga perché mi affascina molto, ma siamo d'accordo un po' su troppo. Sì, tranne io ho fatto il tifo per il Malaga perché facevo il tifo per Pellegrini. Sì. Perché mi piace un po' questa figura un po' sfigata. Perché è un bravissimo allenatore, però perducchia. È un po' chat noir. Sì. Perducchia ha perso il titolo della Liga con 96 punti realizzati, record assoluto, segnando oltre 100 non so quanti gol, ma tantissimi, non sono molto bravo nei numeri. Olè. E quindi mi piacciono, siccome mi piacciono i perdenti, io sono sempre stato per il pareggio, mai per la vittoria, io voglio pareggiare ovunque, portare a casa il risultato. Allora non mi scrivete, devo fermarmi per la borsa? Malaga, no. Malaga. In quella casa. Io facevo invece il tifo per il Malaga perché il Borussia mi sembra un po' troppo strombazzato. È un'altra di quelle squadre forti, per carità, però ogni tanto vederli in difficoltà, dentro a una buca da cui non riuscivano ad uscire, con il sadismo e il cinismo che mi porto dietro, mi ha fatto un certo piacere. Sì, però è anche vero che il Borussia si porta dietro una storia di squadra quasi fallita, che sì, certo. Quindi è riemersa con pochi soldi e tante idee. Ecco, quindi se dobbiamo scegliere un modello a cui ispirarsi, forse sicuro, quello del Borussia potrebbe essere quello giusto. Questo sicuro. Sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Tutti convocati. E oggi convocato qui con me Alessandro Bonanna per parlare di Anatomia di una voce, il suo libro, adesso anatomizziamo, non so se si dice, forse ho sbagliato il termine. Facciamo la dissezione. Bravo, ma vedi che sei un califfo, la dissezione. Io invece c'è chi mi scrive, ma fai una trasmissione normale. Va bene, allora facciamo una trasmissione normale. Normale. Normale, io però vado via. C'è chi ti dice, caro Bonanni, il Borussia ha passato il turno esclusivamente per una cosa che si chiama culo con diverse O. Enrico da sì, no, ha avuto fortuna, c'ha ragione. No, ha avuto un gran culo. Stefano da Brindisi cosa dice? Sì, buongiorno. Dice che innanzitutto deve spegnere la radio perché sennò sentiamo un casino infernale nelle orecchie. Grazie. Pronto? Sì, dica. Sì, buongiorno, io ti posso juventino, fresco reduce dalla Juventus Stadium. Sono praticamente appena rientrato. Però se non l'ho detto, me spenga la radio perché se no non riusciamo a capire perché c'è il ritorno in cuffia. Capisci? Okay. Niente, dicevo, sono orgoglioso come tanti tifosi juventini di questa squadra e di quello che nelle sue potenzialità rispetto a questa super squadra in cui ci siamo imbattuti, fa parte del processo di crescita, tutto quanto è giusto e corretto, era in curva sud ad applaudire i ragazzi, e questo bravo. Comunque è dimostrazione di maturità della tifoseria juventina, quella stessa maturità che molti nostri addetti ai lavori in campo nazionale e molti tifosi come il radioascoltatore laziale di prima devono ancora realizzare per poter mai sento dire dei complimenti vivi a una squadra che negli ultimi due anni sta dominando i due campionati. No, però, questo però manca, Stefano, secondo me, anche come processo di crescita nazionale. Lei ha ragione in parte, l'unica cosa che non mi piace è dire io sono bravo e bello, gli altri no, sono tutti cattivi. Cosa dici, Ale? Noi siamo bravi, belli, però gli altri... Ma io fossi un tifoso della Juventus sarei contento. Molto orgoglioso, certo. Veramente molto orgoglioso del lavoro che è stato fatto, dell'allenatore che c'è e che ha lavorato benissimo. Da certe intuizioni che ci sono state, mi viene in mente quella di Pogba e prima ancora quella di Pirlo. Allora, quando parliamo di idee di tempismo, in questo caso maestri assoluti. Gli altri, però Carlo, cioè anche nel gioco dei tifosi è questo, cioè, ma certo. È sempre bello il nostro mondo e quello degli altri fa schifo, certamente meno bello. Allora dai, dal titolo del tuo libro Anatomia di una voce, ti piacciono i Police? I Police sì, e quando suonicchiavo insomma con il gruppo nella mia Pistoia, mi sembra che uno dei primi pezzi che abbiamo provato a fare era proprio il pezzo dei Police, con risultati devastanti proprio. Bello questo. Ovviamente Voices Inside My Head, come sai bene. Allora, dissezione delle voci, partiamo da Conte. Il freddo di questi giorni si è fatto sentire, anche oggi è stata bella dura, bella tosta, però si vede che anche la voce ha bisogno di riallenarsi. Conte è un personaggio letterario e molto cinematografico. Nella conferenza stampa prima del Bayern di Monaco io ho detto che sembrava Hannibal Lecter prima di mangiare il naso a una delle due guardie dentro la gabbia. Era veramente inquietante. Allora, seconda voce, Stramaccioni. Farmi dare provinciale da chi? Io non cedo proprio niente di provinciale, però è una mia visione. Quando si parla di Inter, prima di parlare di mentalità provinciale bisogna contare fino a 10, sciacquarsi la bocca e poi parlare di Inter. Per me questa è una delle peggiori uscite di Stramaccioni. Bravo, sì. Perché per il resto Stramaccioni anche a livello di comunicazione si è comportato bene. Era molto timido inizialmente, sembrava quasi scontroso, presuntuoso, ma questo è normale. Però poi dopo si è anche preso sul non si è preso troppo sul serio, è stato ironico, intelligente, insomma ha sempre governato bene la propria immagine. Questa è stata un'uscita francamente evitabile, evitabile. Anche perché l'imitazione di Cassano rimane un pezzo di letteratura. assoluta, no, assoluta. Sì. Terza voce, questa: un governo si farà, ma per noi il governo giusto è un governo di cambiamento che possa accompagnare una fase di riforma delle nostre istituzioni. E questo era Bersani. Era uno scherzo, no? Però io da osservatore, insomma, non sono un esperto, giro, no? Ma Bersani a livello di comunicazione è proprio disastroso. Sì, secondo me dovrebbe andare da corso da Mourinho, corso, sì, accelerato. No, e quindi voglio dire, prendo, lo dico insomma con tutto il rispetto, perché non dovremmo guardare a quello, ma alla forza della politica e delle idee, morale e politica del personaggio. Però certamente dal punto di vista della comunicazione Bersani, insomma, molte pecche. Altra voce? No, prossima stagione non torno. Prossima stagione non torno. Voglio tornare un giorno, voglio. È vero, questo non è bugia, questo è il cuore che parla, e voglio tornare un giorno, come voglio tornare anche in Inghilterra, però del momento il mio prossimo club non sarà sicuramente l'Inter. Beh, José Mourinho resta il numero uno in assoluto, assoluto, perché coniuga un po' tutto: la competenza, la forza delle idee, e poi ha questo carisma che esercita con lo sguardo, con le parole, con i gesti, con le pause. È un personaggio tra i più carismatici, secondo me, della storia del calcio. Assolutamente. Poi Buca è uno di quei pochi che... Ci sono dei personaggi che hanno questa caratteristica, tu uomo di televisione lo sai, sì, meglio di me. Ci sono quelli che bucano, che possono non avere neanche la dialettica di Mourinho. Me ne viene in mente uno a caso, era Pantani, me ne viene in mente uno attuale, Balotelli. Hanno questo carisma mediatico. Sì, che è vero, non si insegna. Sono assolutamente d'accordo. Infatti, molte cose che la gente pensa siano state studiate da Mourinho, in realtà sono state un modo di esprimersi assolutamente spontaneo. Vince la Champions e va via con la macchina del Chelsea. E io non sarei così convinto, perché vedo molti indizi che lo potrebbero portare anche in Francia, a Paris Saint-Germain. E comunque, insomma, lui va dove lo porta, dove lo porta il soldo. Abbiamo altre voci, questa, ancora un paio, sì. Via. Ringrazio chiunque l'abbia detto, ma non mi reputo né tra i più forti né tra i più scarsi. Io sono io, vedo in me stesso un miglioramento e cercherò di migliorare sempre di più, ma... Comunque ringrazio chi dice questo, ma non giudico queste cose qua che dico. Trovo sbagliato il parallelo che si fa tra Balotelli e Cassano. Ma io su Balotelli sono abbastanza combattuto, perché da un lato lo inserirei, così come è stato fatto, tra i 100 personaggi più influenti del mondo. Da un altro lo vedo in un centro commerciale di Vimercate a ballare il rap tra una scala mobile e l'altra, perché mi sembra un personaggio così, sì, cioè uno che potresti incontrare lì con le catene, che ti dai una pacca sulla spalla, ci fai due battute e lui sta mangiando popcorn. Balotelli è tutto il contrario di tutto, però è bello, dai, Balotelli. Che male c'è? No, infatti, mi piace, sì, sì, mi piace. Allora, l'ultima è questa. Penso che la società l'ha preso come che io mi volevo tirare dietro, invece io mi voglio tirare avanti e voglio stare alla Roma altri 5 anni. È logico che me lo devo meritare. Ma Zeman, devo dire che mi è sempre piaciuto, però quest'anno decisamente meno, perché è stato troppo, ha insistito troppo su quel calcio lì, doveva cambiare a un certo punto, su quel tipo di impostazione, e ha insistito troppo a mettersi dall'altra parte della Juventus e cosa che ha anche infastidito molto la dirigenza della Roma, sì, che a un certo punto non l'ha sopportato più. No, ma certo, questa guerra santa credo che sia ora di finirla ormai, magari può trovare altri cavalli di battaglia. Poi aggiungo il fatto che secondo me ha insistito troppo anche nel mettersi contro, e sai che a Roma non si fa personaggi come Totti e De Rossi. No, soprattutto un non senso tecnico, quello contro De Rossi. Sì, quello contro De Rossi in un senso tecnico. Se avesse un calciatore più forte di lui avrei capito, ma così non è. Convocati. È un piacere anche per me. Io tifo Valentino Rossi, però te lo dico. Buona, tu sei italiano, devi farlo. Devo farlo, e lo faccio. Devi farlo. Lo faccio pubblicamente. Buona, un po' a Lorenzo anche. Un po' a Lorenzo anche. 10% anche a Lorenzo. Te voglio muy bien, ma io tifo Valentino Rossi. E ieri è stato il nostro ospite, gliel'ho detto. Poi ho la faccia di tolla, però sei lì, ti dico, io voglio che vinca Valentino. È giusto, no? Giusto. Già, assolutamente. Mi permetti di salutare Bergomi, Beppe, ma, lo zio, che in questo momento è in viaggio verso Bergamo. E sì? Bergamo. Ci sta ascoltando, e quindi ciao zio. Ciao zio anche da parte mia. La sentiamo un'altra battuta di Lorenzo, sperando che al prossimo giro arrivi secondo. Io vorrei sapere se questo duello che abbiamo visto domenica tra lui e Valentino Rossi sarà quello che deciderà il mondiale, molto sinceramente. Bueno, magari io spero che sì, che tutti e due lottiamo per la vittoria, per il mondiale, ma sinceramente mi sa che tanto Marquez come Pedrosa saranno tanto forti e ci metteranno le cose molto molto complicate. Ecco, io vorrei sapere da Jorge, anche se una cosa che cui tengo molto, ma lui ha più paura di Pedrosa, che è il suo vecchio avversario, eccetera eccetera, o di questo Marquez che sembra il nuovo fenomeno? Nessuno lo sa, e anche io non spero niente speciale di nessuno, perché tutti e due hanno un talento immenso e dipende dal circuito. Qualche circuito di Marquez sarà più forte e qualche altro Pedrosa. Ciao Jorge. Ciao, grandissimo. È un piacere parlare con voi. È un piacere anche per me. Io tifo Valentino Rossi, però te lo dico. Buona, tu sei italiano, devi farlo. Devo farlo, e lo faccio. Ancora, lo loopiamo. Fammi una natura anche di questa voce. Hai fatto uno scoop innanzitutto, quindi no, complimenti. Però l'anatomia di un motociclista è... la dissezione della voce di un motociclista, secondo me è Valentino è un altro che buca. Sì, beh, insomma, voglio dire, Valentino uno dei più grandi comunicatori del nostro secolo. no, assolutamente sì. Però io sono sempre rimasto molto ammirato dai motociclisti, perché fanno una cosa che non farei. Io non sono motociclista. Io sì. C'ho uno scooter, ma insomma. Sono cascato per una decina di volte. Andiamo in giro insieme. Sì. Ti porto io. Bravo, grazie. Allora, Giuseppe Bologna. Salve, un saluto anche ad Alessandro Bonan. Leggerò il libro e le saprò dire qualcosa. Bene, grazie. Faccia sapere. Con crudeltà, ma sincero. Volevo chiedervi, visto che voi sicuramente siete molto più intenditori di calcio di me, due cose, una sull'Inter e una sugli arbitri. Io non so, sono interista, ma non di quelli che mi lamento degli arbitri, perché effettivamente l'Inter quest'anno fa un po' ridere sotto tutti i punti di vista. Allora, quella sull'Inter è: ma prima di pensare a riformare una squadra, non sarebbe meglio cambiare chi sceglie i giocatori? Perché da quando è andato via Mourinho, sempre che siamo tornati alle vecchie maniere, cioè di prendere un po' o degli scarponi o sì, questa comunque o gente, questa o mi gente sembra di averla non già all'altezza di giocare in una squadra. Mi sembra di averla già sentita da qualche parte. Forse anche tu, Ale. Ma c'è una critica feroce nei confronti della dirigenza dell'Inter in questo momento. Breve inciso, mi sembra che nella battaglia contro gli arbitri molti tifosi non abbiano seguito la società, proprio perché questa battaglia arriva in un momento in cui, insomma, l'Inter dovrebbe fare anche un po' mea culpa. E poi, se ci sono delle responsabilità degli arbitri, è giusto anche metterle in evidenza, però insomma non è soltanto quello. Chiuso l'inciso, dico che l'Inter deve cambiare il registro per la prossima stagione. Non può permettersi acquisti tipo Pereira, perché sono costosi e poi non rendono niente. L'Inter deve comprare dei campioni. Con il ragazzino, il 19enne Kovacic, ha fatto un'operazione da Inter, l'ha pagato tanto, però è andato su uno che potenzialmente è un big, poi magari non lo diventa, però potenzialmente è un big. Ecco, l'Inter va davanti su quella strada, non so con quali uomini, se con l'attuale dirigenza o se ci saranno dei cambiamenti, però insomma certi errori non sono, non mai, credo nemmeno Moratti li potrà tollerare. So che è parecchio arrabbiato. Sì, e vuole strozzare tutti gli arbitri, a proposito di killer, tutti gli arbitri d'Italia. Fabio Padova. Sì, ultimo convocato di oggi. Garanzini. Buon pomeriggio, Garanzini. Salve. Salutiamo Garanzini. Forse da qualche parte ci si deve. Gente, mi scusi l'abitudine. Dica. Mi scusi. Intanto volevo fare anche i complimenti, perché da quando è tornato la Yamaha, ringrazio la Yamaha per la moto a Valentino, perché è tornata l'adrenalina nei Gran Premi già dopo il primo, quindi già là è una meraviglia. Già. Poi volevo chiedere una cosa. Non crede, io parlo da milanista perché sono milanista, che comunque anche certe partite come quelle di in Europa, il fatto che magari quando hai Pirlo sottotono come in queste due partite conti molto nel gioco della Juventus, perché io da milanista mi ricordo che quando Pirlo non aveva le grandi serate anche noi soffrivamo molto, perché quasi tutti si appoggiano a lui come giocatore. Effettivamente ha sofferto molto il pressing del Bayern in queste due partite, al di fuori della superiorità del Bayern che era netta. Ma io, contrariamente a quello che pensano in molti, penso che la forza della Juventus non sia soltanto Pirlo, perché se tu fondi il tuo gioco soltanto sul regista, una volta che ti bloccano il regista, ti bloccano la fonte e ti limitano in maniera assoluta. La forza della Juventus è il ritmo. Quello che è impressionante, in negativo, in questo doppio turno di Champions League, è che la Juventus, che ha più ritmo e velocità in Italia di gran lunga rispetto alle altre, ha subito il ritmo e la velocità e la forza fisica del Bayern Monaco in maniera molto, molto, molto forte. E secondo me è una riflessione che va estesa un po' anche al calcio italiano, dove mi sembra che si corra di meno rispetto a molti campionati europei. Volevo solo, se era possibile, fare i complimenti a Ancelotti, perché ieri sera ho guardato il secondo tempo e non ho visto il primo, non posso parlare, ma ho sentito il Paris Saint Germain, forse è stata la prima squadra veramente a giocare meglio del Barcellona a casa sua, e non è poco, insomma, al di fuori che dopo sia uscito. Sì, il problema è che se giochi meglio del Barcellona a casa sua vai fuori quasi sempre. Però è vero che il Paris Saint Germain è l'unica squadra che ha accettato il confronto sul piano tecnico e lo ha quasi vinto, mentre gli altri battevano il Barcellona, e metto l'Inter di Mourinho, con la grande difesa, la grande grinta, diciamo così, insomma, però non con la tecnica. Allora, adesso dobbiamo chiudere, io ti faccio una bastardata. Sì. Leggo le ultime righe del tuo... No! Leggo le ultime righe del tuo libro, poi... ha dato via di una voce, le leggo? Guarda che se non torni le leggo, eh? No, torno, sicuramente torno, perché mi diverte. Benissimo, allora Alessandro Bonan, grazie del libro. Grazie a voi, grazie a voi. Che leggerò, e se non torni a Stretto Giro di Posta io lo prendo e leggo le ultime. Sarai costretto però a non fare una trasmissione normale, quindi non lo so se ti conviene. Ve lo giuro, una trasmissione normale io non la farò mai, poi tanto giorno altro mi cacceranno, come sperano molti ascoltatori. Alessandro Luna, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. Grazie, grazie a Franco Piantari, autore di questo programma, a Fabio Cantadone, regia. Ci sentiamo per chi vuole domani alle 2. Ciao. Leggerò il libro e le saprò dire qualcosa.